already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Good morning. The news this week has only reinforced the fact.That we are facing an economic crisis. E adesso ha cominciato pure lui, riprendendo l'abitudine di tutti i presidenti, ma l'abitudine lanciata da Franklin Delano Roosevelt, di parlare alla nazione nel giorno della domenica, ma adeguando tutto ciò alla tecnologia di cui disponiamo, ovvero veicolandosi attraverso YouTube e non più attraverso la radio, una volta alla settimana, prima ancora di salire al Campidoglio per giurare e diventare operativamente il Presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama ha parlato agli americani, ha trasmesso la sua prima comunicazione agli americani in modo solenne, molto composto, sicuramente molto più solenne e composto di quanto fosse abituato a fare Roosevelt, che però insomma aveva anche il peso dell'esperienza e anche no, una confidenza ormai accertata nei suoi concittadini. Ha parlato soprattutto di economia. New reforms that will create jobs and fuel long-term economic growth. Vi traduco solo uno dei paragrafi della comunicazione che dura circa 4 minuti di Barack Obama. Dice Obama: io ho già dato disposizione alla mia squadra economica di elaborare un piano di recupero economico che significherà 2,5 milioni di nuovi posti di lavoro entro gennaio 2011, un piano abbastanza forte da confrontarci con le sfide che abbiamo davanti, un piano che io voglio firmare appena prenderò servizio come presidente. Stiamo elaborando i particolari di questo piano, ma ci vorranno comunque 2 anni e uno sforzo nazionale per dare questa ripartenza alla creazione di posti di lavoro in America e per gettare le fondamenta di una economia nuovamente forte e in crescita. Noi vogliamo mandare gente a lavorare, a ricostruire le nostre strade, a rinforzare i nostri ponti, a modernizzare le nostre scuole dove i nostri bambini non sono abbastanza a loro agio. Vogliamo costruire fattorie ambientalmente corrette con pannelli solari, vogliamo cominciare a costruire macchine che siano efficienti dal punto di vista delle energie contemporanee e alternative, in modo da liberarci dalla dipendenza dal petrolio estero. Vogliamo fare in modo che la nostra economia torni ad essere competitiva negli anni a venire. E questo è stato il primo annuncio, diciamo, il primo debutto ufficiale rivolto direttamente agli americani da parte di Barack Obama, che sta trascorrendo questi giorni della sua transizione, ormai mancano meno di 2 mesi al passaggio di consegne, preparando la squadra, mettendo a punto la squadra. E oggi è un giorno importante perché alle 6 del pomeriggio, ora italiana, verrà presentata nella sua interezza la squadra che si occuperà di economia per Obama. Si tratta di una sarà una squadra piuttosto nutrita, parecchi nomi, naturalmente molti nomi sono già venuti alla luce, ma verranno ufficializzati e confermati nel corso un incontro, di una conferenza stampa che si terrà ancora a Chicago. Ci sarà sicuramente Timothy Geithner, il capo della Fed di New York, che è nuovo ministro del Tesoro. Ci sarà Lawrence Summers, a capo del Consiglio Economico Nazionale. Ci saranno anche i nomi di supporto di questa squadra, se ne fanno parecchi, non ultimo quello di Rubin, un economista che con Bill Clinton ottenne risultati brillanti. È tornato a parlare in queste ore anche David Axelrod, il principale consulente, collaboratore di Barack Obama, l'uomo che ne ha guidato la vittoria nelle presidenziali e che ora è ufficiale. Barack Obama ha deciso di portare con sé alla Casa Bianca, continuerà a sedere, sarà l'omino per modo di dire, omino seduto da una parte nello studio ovale, no? Un po' in penombra. E chi entrerà nello studio ovale vedrà una figura un po' in penombra, magari con un po' pelato, no? Con dei baffi. Bene, sappia che quello è un uno degli uomini che si è dimostrato più strategicamente capaci degli ultimi decenni, risponde appunto al nome David Axelrod e sarà il consigliere a tempo pieno di Barack Obama. Tra l'altro queste promesse di creare 2,5 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2011 è appunto legato a un vasto piano di stimolo economico che Obama sta mettendo a punto e che il senatore democratico Charles Schumer ha dichiarato potrebbe costare ai contribuenti qualcosa tra 500 e 700 miliardi di dollari in più a quelli già stanziati. La stessa presidente della Camera Nancy Pelosi parla di centinaia di miliardi. Quindi novità in giornata per la squadra di Barack Obama, novità anche nel weekend. Si sono accorti per esempio i cronisti al seguito di Obama, una vera e propria torma che ne segue le mosse minuto per minuto, si sono accorti con una certa riprovazione che il presidente eletto non va a messa, non è andato a messa, sono pronti a giurare, da quando ha vinto le elezioni, ed è una novità pressoché assoluta, almeno negli ultimi tempi. Sono già uscite fuori le tabelline di quanto sono andati a messa i presidenti eletti e ci sono andati a messa sempre, meno che lui che non ci va. E tant'è vero che lo stesso team di Barack Obama si è sentito in dovere di spiegare e di dire sì, effettivamente non va a messa, sì, aperta parentesi, effettivamente va in palestra, perché pare che all'ora della messa lo trovino sempre in palestra, ma su questo magari hanno sorvolato. Però si dice non va in palestra, non va a messa a Chicago Obama per un motivo molto semplice, perché come ricorderete il suo rapporto spirituale con il suo pastore spirituale Jeremiah Wright è stato uno dei principali oggetti di scandalo della sua campagna elettorale. Venne letteralmente criminalizzato allorché si tacciò di antiamericanismo Jeremiah Wright, di essere un pastore estremista, di un afrocentrismo completamente incompatibile naturalmente con aspirazioni presidenziali, e fu uno dei guai che poteva portare a fondo la candidatura di Barack Obama, ma che lui seppe comunque devo dire recuperare in modo assai capace, soprattutto grazie a quell'eccellente discorso sulla razza che pronunciò a Filadelfia nel marzo di quest'anno. Però naturalmente di mettere piede dentro quella chiesa non se ne parla neppure, la Trinity United Church of Christ nel South Side di Chicago, anche se Jeremiah Wright è andato in pensione, anche perché il pastore che ha sostituito Jeremiah Wright pare essere più estremista del suo predecessore. Se non sbaglio si chiama Otis Moss, non vorrei dire una sciocchezza, mi sembra che il suo nome sia questo. Si stanno di conseguenza considerando altre parrocchie, no? Altre parrocchie a Chicago e naturalmente anche altre parrocchie a Washington. Come a Washington pare si sia scelta la scuola, si è decisa per una privata dove mandare le ragazze. Insomma, è in peccato in questi giorni Barack Obama, è in peccato da un punto di vista spirituale fondamentalmente, perché non vuole più commettere gaffe da un punto di vista politico. E poi, sotto osservazione, per concludere questa apertura di settimana, anche in questo caso una settimana assai interessante nella transizione, in questa fase particolare, delicatissima della politica americana, un presidente che lascia il passo all'altra, sotto osservazione anche la nuova First Lady, Michelle Obama, a cui viene dedicata la copertina da Newsweek, viene paragonata a Eleanor Roosevelt, donna che tantissimo contò nella presidenza di suo marito Franklin Delano. Il peso della presidenza aumenta in tempo di crisi nazionale, scrive Newsweek. È in tempi come questi che gli americani chiedono di più alle First Lady. Saranno le spalle di Michelle Obama abbastanza robuste da sopportare questo peso? L'articolo è piuttosto generoso nei suoi confronti, scrive ancora Newsweek. La nuova First Lady avrà l'opportunità di abbattere le idee preconcette sulle donne di colore, di educare il mondo sulla realtà della cultura afroamericana, di cui lei è orgogliosa esponente, ma ancora più importante da quel che potrà fare suo marito, Michelle avrà il potere di cambiare come gli afroamericani vedono se stessi, la loro vita e le loro possibilità. Tutto ciò nelle possibilità appunto grandi, importanti, già ampiamente dimostrate da questa donna che suo marito ormai abitualmente, pubblicamente chiama la roccia. Questo secondo me è un Vox Continental, l'organetto, non è l'Hammond con cui si facevano gli assoli ai tempi di Petula Clark, che è la vocina che ci sta offrendo una deliziosa cover version di Winchester Cathedral, classicissimo, evergreen, sempre verde, degli anni 70, a proposito di donne, a proposito di signore, a proposito di Michelle e anche a proposito di quest'altra signora che si chiama Desiree Rogers, che ha diretto società di primo piano nel Midwest, nel ramo assicurativo ed energetico, e che è stata nominata Social Secretary della residenza presidenziale. Sarebbe è la prima afroamericana responsabile in pratica delle attività sociali della Casa Bianca, laddove la Casa Bianca decide di coinvolgersi, di sponsorizzare, di dare il proprio patrocinio a determinate iniziative, poi organizzare cerimonie, cene di Stato, eventi artistici, attività pubbliche della Casa Bianca, comprese le cerimonie del giuramento dei membri della nuova amministrazione. Una operazioncina mica facile quel giorno, quando tutti vorranno avere un biglietto e le telefoneranno dicendo: Desiree, ti ricordi di me? Hai un biglietto per la inaugurazione? Prima pagina. Allora, in attesa di vedere come si dispiegherà il lavoro molto complicato di Desiree, insomma, che dovrà dire molti organizzare no. Organizzare l'inaugurazione, molto esistente. Non so no. Se invidiarla in questo ruolo, anche se sicuramente il prestigio sarà notevolissimo. Sarà una durissima. Veniamo alle cronache dalla Cina, che ci confermano questo andamento, se non proprio di crisi, almeno di situazione da tenere sott'occhio dal punto di vista economico e anche dei contraccolpi sociali. Perché ieri il sindacato dei lavoratori dello Shandong, che è questa regione ricchissima, nelle agenzie viene definita opulenta, dove si produce gran parte della ricchezza e delle materie prime della Cina, dicevo, il sindacato dei lavoratori dello Shandong ha diffuso i dati sull'occupazione. Ebbene, da settembre 2007 a settembre 2008, quindi nell'arco di un anno, la forza lavoro è diminuita di 30.000 unità, un numero forse non strepitoso vista poi la popolazione anche lavorativa cinese, però è la prima volta in tanti anni che c'è un calo nei posti di lavoro in Cina, e quindi questo è, se vogliamo, un altro segno dei tempi. Nel frattempo il governo sta cercando di stimolare il consumo interno con tagli alle imposte sui redditi, un nuovo pacchetto di incentivi, e poi si prevede l'iniezione di almeno 400 miliardi di yuan, quindi 40 miliardi di euro, quindi una cifra notevolissima, nel mercato azionario per accrescere la fiducia degli investitori. Quindi la Cina si prepara, se non altro, a correre ai ripari di fronte a una ipotetica, per ora ancora lontana per loro fortuna, possibilità di crisi. Oh, l'amico Obama, come detto, a Chicago si dà un grande affare, cioè ha messo radici nella sua città, e nello Stato di cui è ancora per qualche giorno senatore, in attesa appunto della inaugurazione organizzata dalla nostra amica, la signora Desiree, a cui dobbiamo telefonare adesso per chiedere i biglietti. Per avere un posto il 20 gennaio. Buongiorno Desiree, Jefferson Ming, ci dai due biglietti per l'inaugurazione? Accettiamo puntate sulla risposta di Desiree. Potete telefonare o mandarci un sms e dire quante possibilità abbiamo di avere due biglietti da Desiree Rogers, a cui stiamo facendo molta pubblicità, per l'inaugurazione. Io ho in mente anche delle quote, ma poi dopo ve le dico. Ma vi dicevo, Barack Obama invece è in città, non si muove praticamente più da quando ha vinto le elezioni, forse anche perché è stufo di girare per l'America e di mangiare fuori, no? Di mangiare nei fast food. Sta sempre a Chicago e riceve lì tutti i vari notabili che lo vanno a trovare per la formazione del governo, e poi va anche a spasso per la città, come ha fatto ieri, e a un certo punto si imbatte, no? Capita che si imbatta in un comitato promotore delle Olimpiadi 2016, Chicago 2016, si ferma, si mette a chiacchierare così all'impronta, senza che nessuno se l'aspettasse, è una sorpresa per tutti, e soprattutto dà così, sempre in modo informale, la sua sponsorizzazione. Dice: bene, 2016 ha fatto due conti, sto finendo poteva essere l'ultimo grande gesto di Obama, presidente, di confermare. Infatti pare che abbia detto proprio questo, dice: non vedo l'ora di finire il mio secondo mandato come presidente degli Stati Uniti e di annunciare al mondo che i giochi comincino, no? Come fanno quelli, i presidenti, quando aprono i giochi olimpici. Del resto sta nella sua idea, insomma. Chicago sta vivendo un gran momento, le squadre sportive vincono i campionati, la città è diventata, oggettivamente lo è, questo lo posso testimoniare, bellissima. Il presidente è della città. Anche perché il tempo stringe, perché mi sa che sono 7 anni prima l'assegnazione. Allora, ci siamo. Quindi l'anno prossimo bisognerà scegliere chi sarà la successiva. Come si dice? Buonanotte. Quella che dovrà succedere a Londra nel 2012. Comunque, insomma, lo sponsor ce l'hanno. Questi sono ancora i Guns N' Roses. Ancora. Non siamo soddisfatti. Che hanno fatto? Arrestati non tutti? È a caso la scelta dei Guns N' Roses. Noi venerdì abbiamo parlato, tu Stefano hai parlato di Chinese Democracy, questo nuovo disco dei Redivivi Guns N' Roses, che per chi ha la mia età, insomma, siamo cresciuti con i Guns N' Roses alla fine degli anni Ottanta. Ci sarebbe da dire su questo. Vabbè, e insomma, comunque è arrivata già una durissima bacchettata, per non dire proprio censura, da parte del Global Times, che è un quotidiano in lingua inglese pubblicato dal Partito Comunista Cinese, si è arrabbiato ferocemente contro i Guns N' Roses e questo album e questo titolo, Chinese Democracy. E allora c'è un titolo che già, insomma, c'è un articolo che già nel titolo dice tutto: album di un gruppo americano attacca la Cina, come se i Guns N' Roses non fossero degni di essere citati già nel titolo. Sembra ufficio di propaganda, la agitprop. Il Global Times sostiene di fatto che il disco abbia scatenato la rabbia di tutti i blogger, gli appassionati di internet cinesi, e addirittura lo definisce come l'ennesimo tassello di un complotto delle potenze occidentali per, leggo testualmente tra virgolette, controllare il mondo usando la democrazia come scusante. Ma stanno insieme con i cerotti, Guns N' Roses, ragazzi, sono un gruppo di sopravvissuti, una parola grossa. Evidentemente, agli occhi del Global Times sono più che sovversivi. No, i Guns N' Roses, no. Vediamo se ci saranno delle nuove iniziative. Hanno fatto il disco Chinese Democracy, chissà pensando a che cosa, chissà come gli è venuto sto titolo. Chissà quanto venderanno, però. Probabilmente mangiando riso fritto nello studio, buttate lì per terra. Non il Partito Comunista Cinese, secondo me, può stare tranquillo. L'attacco dei Guns N' Roses, diciamo, è di modesta portata. Comunque, molto probabilmente il disco non verrà venduto ufficialmente in Cina, poi per altre vie troveranno, ci sarà il modo di scaricarlo, di comprarlo al mercato nero, quindi sicuramente Guns N' Roses avranno grande successo in Cina da qui ai prossimi mesi. Comunque vi annuncio che tra poco 4 chiacchiere, non ce ne siamo mica dimenticati, sulle chance di Hillary Clinton di sedere su quella poltrona di segretario di Stato, ma dovremmo capirlo, salvo superare tutti gli ostacoli, sembra veramente sia fatta, dopo il ringraziamento dovrebbe arrivare l'annuncio. 4 chiacchiere con Mario Platero, e poi dal sacro al molto profano, a proposito di riso fritto Gamberetti, piatto ricco micifico, più tardi in chiusura di programma un ragionamento con uno che la s'allunga, no? Un nostro amico. E che ha anche molte sorprese per noi. Sulla grande crisi del riso fritto Gamberetti e più in genere della cucina cinese, pare che gli italiani non vanno più a mangiare cinese, io sono uno degli ultimi, ma guardate del resto come sono ridotti. Insomma, parleremo con chi di dovere per capire motivi, ragioni e, come dice il buon Barack Obama, un piano di rilancio dei ristoranti cinesi in Italia. Vabbè. So fine. When you smile, it's for me only. momento chiamiamo in causa Mario Platero, il corrispondente da New York del Sole 24 Ore, per capire meglio, insomma, per capire all'ultima ora se le chance di Hillary sono veramente così alte e soprattutto che aria tira attorno a questa nomina così importante. Buongiorno Mario, come stai? Buongiorno, benissimo, grazie, tutto bene. Direi sì, la nomina di Hillary è quella che ha creato il maggior buzz a Washington, in America, qui a New York. Insomma, è stata un po' una sorpresa ed è stata la prima vera dimostrazione del realismo politico che in qualche modo pervade Barack Obama. Ha scelto la persona forse più giusta dal punto di vista della preparazione, della visibilità, dal punto di vista della presenza e della leadership anche all'interno del Partito Democratico. Ecco, è stata una mossa inattesa, ha in qualche modo abbandonato colui che lo aveva lanciato, e cioè John Kerry, che sembrava uno dei candidati più probabili. E dietro questa nomina naturalmente si dicono molte cose. La prima è che lui è deciso, come fu deciso Abramo Lincoln, creare un gruppo di ministri straordinariamente bravi, vuole i migliori, e in effetti non c'è dubbio che Hillary Clinton sia meglio di John Kerry. John Kerry è considerato un po' un damerino, Hillary è pragmatica. Le scelte che ha fatto finora, lo confermano con Hillary, sono delle scelte sul piano politico più centrista, e quindi anche questo è stato un importante segnale. E poi c'è stata così la sofferenza interiore di Hillary, che non era sicura anche lei se lasciare la sua indipendenza al Senato e quindi di continuare come membro influente, perché poi le era stato promesso di assumere un ruolo così all'interno della leadership, quindi non era vero che avrebbe avuto un ruolo di secondo piano vista la sua giovinezza gerarchica all'interno del Senato. E quindi Hillary ha sofferto molto, perché in qualche modo si deve mettere al di sotto di Barack Obama, al Senato avrebbe sua indipendenza, ma la poltrona di segretario di Stato è chiaramente straordinariamente importante, le offre grandi opportunità. Poi diciamolo, Hillary è più una persona operativa che legislativa, ha avuto garanzie da Barack Obama, abbiamo saputo ieri che Obama le ha detto che avrebbe potuto fare le sue nomine chiave, avrebbe potuto scegliere le sue persone, quindi crearsi la sua squadra senza doversi così sottomettere alle scelte o alle indicazioni del gruppo di Barack Obama, e che avrebbe avuto soprattutto un accesso diretto al presidente e quindi a Barack Obama. Fatto anche questo non secondario, perché il vicepresidente Joe Biden, come sappiamo, era il presidente della commissione esteri al Senato, era quello che avrebbe dovuto avere la leadership politica esterna, era quello che è stato venduto durante la campagna elettorale come il punto di riferimento per una politica estera così di esperienza e matura. Quindi si tratterà di vedere come questi personaggi così molti galli, diciamo, potranno trovare il modo di lavorare insieme. Tra l'altro c'è anche una chi la vuole mettere sulla graticola, insomma, leggendo con attenzione i giornali, gli editoriali americani questi giorni, c'è chi dice che poi comunque tutta questa esperienza internazionale che viene data per assodata all'attivo di Hillary Clinton in realtà, insomma, non sia proprio una realtà di fatto. Lo stesso Obama, no, diceva sì, era buona per andare a prendere il tè con gli ambasciatori quando erano un tempo erano rivali e non alleati come stanno diventando adesso. Quindi anche questa forse è un po' una scommessa, no? Il personaggio è di grande valore, insomma, ma la certezza di tutta questa esperienza ci può essere? Beh, l'esperienza sul piano tecnico chiaramente non è così elevata come potrebbe essere quella di altri, ma ci rendiamo sempre più conto, soprattutto in questo momento, che è importante la credibilità, la leadership, il poter esercitare una certa influenza. E Hillary, non dimentichiamolo, ha dietro le spalle anche suo marito Bill, che è in rapporti straordinariamente intimi con tutti i principali leader mondiali. Nel momento in cui si dovranno muovere le cose, beh, lo sappiamo, alla fine gli accordi, al di là della conoscenza tecnica, dei dettagli tecnici, sono fatti molto sulla base dei rapporti personali, delle credibilità personali, e in questo Hillary Clinton, direi, sicuramente non fallisce l'esame. Ci sono molte manifestazioni di amarezza all'interno del partito, perché chi dice che Barack Obama aveva corso la sua la sua battaglia elettorale, certo, così all'insegna del cambiamento, prendendo poi Hillary e quindi con lei ovviamente in qualche modo il marito non cambierà un bel nulla. C'è molta amarezza, certo, certo. Ci sono quelli che si aspettavano di avere ricompense, non ci sono state. C'è questo libro che è un punto di riferimento di Barack Obama, per Barack Obama, un libro che si chiama Team of Rivals, Rivals, ed certo, è Team of Rivals, quindi squadra di rivali, ed certo, è una ricostruzione storica su come Abraham Lincoln, appunto, come dicevo prima, aveva costruito una squadra fatta di persone controverse e in qualche modo spigolose, ma erano le persone migliori ed erano le persone di cui lui aveva bisogno in quel momento per creare una solida coalizione in un paese che anche allora passava un momento di grande fragilità, di grande difficoltà sia sul piano economico che su quello politico. Senti, ultima domanda, ma per arrivare a sedere su quella poltrona, comunque così onorevole e così ambita, dovrà sopportare ancora una serie di, aperte virgolette, esamini, chiuse virgolette, Hillary, alcuni dei quali tra l'altro riguardano gli affari di Bill con tanti governi del mondo con i quali, con la sua fondazione, ha intrattenuto rapporti spesso anche monetari, insomma, ma piuttosto intensi negli ultimi tempi. Ce la farà, secondo te, a passare questi esami, Hillary? Credo che ce la farà, credo che la decisione è presa, credo che alla fine la politica è politica in tutto il mondo, i democratici sono in controllo del Senato, lo saranno quando ci saranno le audizioni per la nomination, non credo proprio che qualcuno decida all'improvviso di farle la guerra. Tutta l'operazione di clearing, di pulizia, di trasparenza che riguarda Bill Clinton è in qualche modo già stata portata in territorio avanzato, ha ricevuto la signora un questionario con 63 domande in cui doveva rispondere anche a questioni che riguardavano il marito. Noi sappiamo che Bill Clinton ha molte ombre, in questi anni ha guadagnato grandi quantità di denaro, la sua fondazione ha ricevuto 36 milioni di dollari da un uomo d'affari che Bill Clinton stesso aveva introdotto al leader del Kazakistan, questo signore poi ottenne un grosso appalto dal Kazakistan e guarda caso subito dopo Clinton, o meglio la sua fondazione, ottenne questo versamento. Ci sono molte storie di questo genere, però sono storie che in qualche modo Clinton può giustificare, era molti anni fuori dal governo, un suo ruolo di intermediario anche indiretto tutto sommato poteva essere giustificabile, il problema riguarda il futuro. E Bill Clinton ha detto che farà qualunque cosa gli sarà chiesta pur di far sì che possa svolgere il suo incarico e soprattutto possa ottenerlo. Questo significa che rinuncerà a molti affari, si impegnerà a ridurre i suoi viaggi, i suoi rapporti più di business con leader e con governi stranieri e forse a dedicarsi più davvero alla sua fondazione che vuole promuovere così una missione per portare medicine, per alleviare la povertà, per combattere l'inquinamento nei paesi in via di sviluppo. Va bene, grazie, buon lavoro e buona giornata a Mario Platerio, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Le domande che gli ponevamo erano legate anche alle possibilità, alle probabilità di chi guiderà questa commissione di indagine, di accertamento sulla sanità della posizione complessiva di Hillary Clinton, come fanno sempre gli americani in questo caso, prima di dare le chiavi di un ufficio di questa importanza a una personalità, sia pure dell'importanza di Hillary Clinton. Sarà John Kerry non è un amico di Hillary, ci sono state tante baruffe in passato, lei appoggiò il generale Wesley Clark quando lui era candidato alle primarie, Kerry appoggiò Barack Obama contro Hillary Clinton nelle primarie del 2008, l'esame sarà severo, ma come dice Mario è assai probabile che una volta lanciata in orbita la candidatura di Hillary Clinton, gli stessi democratici non avranno nessuna intenzione poi di abbatterla, no? Coi disastrosi risultati che ne conseguirebbe. With something on your mind, darling, tell me, why are you crying? side, and you must believe me. No matter what the people might say, you must believe me. Darling, it just didn't happen that way. No, no, it just didn't happen that way. Oh, it's all right. It's alright. Girl, you're wrong to believe what was said. For you see, nothing could ever be that bad. Though the talk is now all over town, darling, you know I'd never put you down. True, her and me were at the party as guests. There's nothing else to say about whom I love best. And you must believe. Allora, George W. Bush ha appena parlato sulle scale esterne del Dipartimento del Tesoro in relazione all'operazione di salvatagio di Citicorp, rilasciato come suo costume una breve dichiarazione, affiancato da Paulson. Ha detto di aver discusso anche con il presidente eletto Barack Obama il programma in favore della banca newyorkese, una delle più grandi del mondo. Tra l'altro ha detto anche che la tutela del sistema finanziario è stato il primo passo della sua uscente amministrazione verso la ripresa economica. Insomma, cerca anche di guadagnarsi qualche merito nel tentativo di salvataggio dell'economia americana. Ha detto che ulteriori decisioni difficili potrebbero rendersi necessarie per salvaguardare il sistema, quindi in un certo senso preannunciando questa seconda iniezione che sembra sempre più imminente, ma che probabilmente sarà firmata Obama. E ha ribadito che si tratta di un periodo difficile per gli Stati Uniti. Questo è quanto da Washington per oggi. Adesso non ci spostiamo in Cina, ma ci spostiamo a Roma, credo a pochi metri da qua. Ma il nostro interlocutore, che voleva peraltro venirci a trovare in studio, è rimasto bloccato in quel traffico di cui sentivate parlare poco fa dalle nostre relative notizie. Si chiama Matteo Chen, è 27 anni, è cinese, ma è cresciuto a Roma. Lo abbiamo già avuto ospite in studio, sia al telefono che dal vivo. Vi ricordate? Ha fatto il volontario ai giochi di Pechino e ci ha raccontato le Olimpiadi, questo evento che già insomma sta diventando un po' storia da una angolazione particolare, ma adesso anche legata alla sua attività, al suo lavoro. Lui lavora in un ristorante cinese. Matteo ha lanciato un grido d'allarme, dice che per i ristoranti cinesi da un po' di tempo le cose vanno male, gli affari vanno male, e lui dà una spiegazione, anche forse c'è anche un po' di pigrizia, come dire, gastronomica. Andare a mangiare da un ristorante cinese raramente è una vera piacevole avventura gastronomica, invece potrebbe esserlo. E a questo proposito Matteo ha anche delle proposte da fare, da lanciare anche ai nostri ascoltatori. Buon pomeriggio Matteo. Buon pomeriggio, come saluto stai? A tutti. Dunque, tu hai... Sarà bloccata qua. No, ma guarda, sei stato già giustificato dalla rubrica del traffico poco fa, che ha detto che Roma praticamente è ferma, quindi va bene così. Dunque, allora, prima di tutto confermi, vanno male gli affari per i ristoranti cinesi, ma io, aspetta, aggiungo anche un'osservazione, una critica, vediamo se la condividi. Sì. Come dicevo prima, non è che però, almeno a Roma, andare a mangiare nei ristoranti cinesi si abbiano molte sorprese. Si mangiano sempre un po' le stesse cose e spesso insomma si esce un po' così, un po' annoiati. Che ne dici? Sì, la gente diciamo sempre abituata a mangiare sempre le stesse cose, ma questo tipo di cucina che a Roma o in tutta Italia che mangiamo voi sono delle cucine cinesi fatte per gli italiani. Cioè, non è la vera cucina. Misura, diciamo. La cucina cinese su misura per gli italiani. E perché? Perché è successo questo? Eh, successo è che i nostri, diciamo, i genitori nostri sono venuti qua, hanno portato i piatti più semplici e più accettabili per voi. Allora, una volta abituato a un tipo di gusto, se li facciamo mangiare delle altre cose è più difficile ormai a cambiare i gusti. Questo è vero, basta andare nei ristoranti cinesi di un'altra grande città europea o americana, per non arrivare naturalmente fino in Cina, e si mangiano cose diverse. A Londra, Parigi, certo, certo. Poi persino a Madrid si mangia un po' particolare adesso. E tu hai una idea che ti passa per la testa in questi giorni, vero? Questi giorni io con amici miei abbiamo intenzione di fare una cosa, un progetto molto carino, diciamo, fare una gran gara della gran cucina cinese. Una gara della cucina cinese? In che cosa consiste? Come funzionerebbe? Allora, diciamo, vanno a fase eliminatoria, sicuramente ci sarebbe tantissimi iscritti. Tutti sono contenti di partecipare a una cosa del genere, e poi mettiamo un bel montepremio, così certo. Almeno fatidiamo un po' questi cuochi, bravi cuochi, veramente cuochi, non questi normalmente che troviamo in cucina. Che... Ma facci capire, volete far confrontare fra di loro i cuochi dei ristoranti cinesi, romani, italiani, o anche degli grandi chef? No, io diciamo per prima edizione vogliamo farlo, diciamo, prendere tutti i più cuochi possibile. Poi piano piano andrà avanti, andremo a queste cose dell'eliminatore, queste cose qua. Intanto lo stavamo ancora progettando, certo. È solo a fase iniziale queste cose. E dove volete farlo? A Roma? O sicuramente a Roma. Sicuramente a Roma, però in altre città facciamo delle fasi eliminatorie. Fase eliminatorie. Le altre persone possono anche parteciparlo. E c'è la possibilità di venire a Roma per fare un gran finale. Va bene, noi naturalmente ci iscriviamo come giurati, vogliamo essere giudici o tra i giudici. No, vabbè, voi diciamo, vorrei invitare pure il vostro castronauta, Davide Paolini. Ah, va bene, gli gireremo sicuramente l'invito da parte tua. Senti, ma tu parteciperai alla gara o fai solo l'organizzatore? Penso che farò organizzatore, perché anche se partecipo mi elimina subito, penso. Ah, non hai una ricetta segreta nel cassetto? Sì, ma qualcosa così, però alla fine non so, confronto a loro è una cosa, un piatto così, diciamo, non è a grande livello come loro. Vai avanti, dici di che si tratta. Dici di che cosa si tratta. No, a me mi piace molto il riso a zenzero, non so se voi l'avete mai assaggiato. Sì, certo. No, non l'abbiamo mai assaggiato, ma sappiamo cos'è lo zenzero, insomma, riusciamo a... Sono riso saldato a zenzero, tagliare pezzettini, che li sa fare il sapore di zenzero, pure pezzi di... Alla parte mette un pezzo di limone pure, casomai quando se il zenzero è forte così copri con un po' di salsa di limone, che è una cosa favolosa. Guarda, qua già stanno arrivando dei messaggi di giurati, di persone che dicono, Matteo, ti dicono che vogliono far parte della giuria, insomma. Sono tutti benvenuti. Ma oltretutto, questo, quando faccio questo tipo di gara, volevo far conoscere più italiani possibile alla cucina cinese. Va bene. Non è che sono delle persone, diciamo, qualificate, pure certo. Semplici persone normali, certo. Perché a noi ci deve essere soprattutto loro. Guarda, noi recepiamo e appoggiamo con piacere questa tua idea, che mi sembra brillante, però vorremmo da parte nostra anche, insomma, inviare, come dire, un segnale ai tuoi colleghi ristoratori cinesi, che si facciano venire un po' di fantasia in più, insomma, anche da parte loro, no, l'offerta dovrebbe essere un po' più ricca. Speriamo che questa tua iniziativa riesca un po' a smuovere le acque. La fantasia ce l'hanno, però la maggior parte delle persone c'è una paura di provare, alla fine. È certo. Perché una cosa, uno va a mangiare lo stesso cose. Hai ragione. Poi è vero, il cliente italiano è sospettoso, già si siede lì, poi aspettando i primi piatti già comincia il lamento con la moglie, cara, però certo il piatto dei spaghetti, le cose. Va bene, allora coraggio, aspettiamo maggiori informazioni, maggiori particolari, Matteo, d'accordo? Vuole un sponsor poi in futuro, se capita qualcuno che arrivava da voi. D'accordo, e cercasi sponsor anche. Sì. Ecco, appunto, c'è già qualcuno che dice che solo a sentirne parlare gli è tornata la voglia, no, di cibo cinese. Chi apprezza il cibo cinese lo sa com'è la questione. A un certo punto ti viene voglia, esci e cominci a vagare nella città, no? Perché assolutamente ne devi avere, no, di riso fritto gamberetto. Bene, sotto il cielo più cupo che mai sia possibile, questa era Jefferson Ming di oggi. Sono Stefano Pistolini, redazione Emiliano Enrico, la parte tecnica a Milano Filippo Aureggi, a Roma Alessandro Chiappini, la mail è jeffersonming@radio24.it. La puntata va come al solito in replica stasera alle 9, se no ci sentiamo domani attorno alle 4 qui da Radio 24 in diretta. Ciao.社会本来就是这样，被误会又怎样，被伤心又怎样，玩不起这游戏的人就请靠边站。狗狗嗅觉非常灵敏，可以闻到很多东西，却又色盲，黑白分辨不清，观众也就跟着相信。最重要的是对得起自己，不变的道理，高手过招，戴着面具显得活得动情生硬。我回家去打坐取舍生养性，沉默的人最聪明，不做无聊的回应。拜拜拜拜。